Questo è il 2011. Bella regà. Orb. DJ Nervo al beat. Bunker Studio 3D. Nuovi stili EP, baby. Adesso cambia musica. Non mi fido di te, non mi fido che c'è. Non ti fidi di me, non ti fidi perché la sorpresa annuncia che volevi embe. Un festino in un privé, non ci stai. Solo te se parli perdi, ma le rime non le fai. Così non mi raggiungi e mai ce la farai. Se parli mi zittisci, di che parli non lo sai. Allora non capisci e manco capirai. Se non vuoi farà, sai bene dove stai. Continua a fa cazzate così imparerai. Tanti quanti che te vanno a fa lezione. Quanti intenti c'è sta più di un chiacchierone. Che va a fa lo sveglio della situazione. Ma non sa dove sta quando sei prende posizione. Devi fare ciò che pensi e dire quel che fai. Devi fare ciò che dici, se quel che pensi fai. Se non hai capito, risenti un'altra volta. Non ho voglia di ripetere, c'ho la testa già stravolta. Non voglio rifarime come un pappagallo. E sinceramente, non mi ci metto a fallo. Se non me fido, c'è un motivo. Sarà questa gente che descrivo. Se non te fidi, io non me fido. E battuta del cazzo, io non rido. Se non me fido, c'è un motivo. Sarà questa gente che descrivo. Se non te fidi, io non me fido. E battuta del cazzo, io non rido. Chi dentro ha un computer, gioca a far coatto. Tutto il giorno dentro casa e si sente matto. Mi piace chi parla delle cose non vissute. Certe bocche de merda dovrebbero sammute. Guarda se la ami te lo dico è troppo dura. Se vedi rovinare ciò che è la tua cultura. Sacciana sta ingrassa come lo strutto. Fomentata da pagliacci che fa finta te fa brutto. Purtroppo questi fake non sanno fare altro. Tutti lo sanno ma c'è chi se sente scaltro. A fare il tipo losco dietro la tastiera. Manco iedo appeso ma qualcuno peggio spera. Purtroppo è così come va se sa. La gente che sta lì non è quella che sta qua. La gente mia non ha la forza di parla. Ecco perché io lì sto a rappresentare. C'è chi lo fa senza capacità. E chi lo saprebbe fa ma non ha opportunità. E a volte so cose tristi da spiegare. Quindi ciò che resta è darsi da fare. Se non me fido c'è un motivo. Sarà questa gente che descrivo. Se non te fidi io non me fido. E battuta del cazzo io non rido. Se non me fido c'è un motivo. Sarà questa gente che descrivo. Se non te fidi io non me fido. E battuta del cazzo io non rido. Se non me fido c'è un motivo. Sarà questa gente che descrivo. Se non te fidi io non me fido. E battuta del cazzo io non rido. Non me fido di quello che dici. Voglio vedere prima dei sacrifici. Non me fido di quegli stronzi dei tuoi amici. Voglio vedere prima che non siano miei nemici. Non credo più a certe cazzate. Ad amicizie vere dopo due chiacchierate. Sembra una cazzata ma poi te ne penti. Non tratta d'amici, semplici conoscenti. Anche se poi te devi buttare. La vita da solo te la devi fa. Tra schiaffi e calci che m'hanno dato. Sono cresciuto e mi sono formato. E non so solo che c'è passato. Ecco perché anch'io me sento soldato. Degno e fiero in una grande città. Pronta al devasto per annarmi la pia. Con la voglia di chi nulla ha mai avuto. Non lascerò perdere senza averci combattuto. Le parole di chi molla valgono uno sputo. Anche perché se te fermi sei perduto. Se non me fido c'è un motivo. Sarà questa gente che descrivo. Se non te fidi io non me fido. E battuta del cazzo io non rido. Se non me fido c'è un motivo. Sarà questa gente che descrivo. Se non te fidi io non me fido. E battuta del cazzo io non rido. Se non me fido c'è un motivo. Sarà questa gente che descrivo. Se non te fidi, io non me fido. E battuta del cazzo, io non rido.